fatta per pagare, così diceva forte mio nonno. Ma si sa che nulla accade, nulla accade prima, se non in un sogno. Aspettami domani che venga la sera, aspettami domani che sarò più vera, e non servirà più a niente come capire i miei fianchi, che la luna venga e ci scopra tra la gente, che la luna venga con i suoi occhi bianchi. Saranno queste note a raccontare il prezzo delle stelle, saranno loro ad insegnare, a dettare i tempi delle labbra sulla pelle. Ma cambio questa strada, la cambio, la trasformo, cambio il suo colore, bruciare più non voglio. Non è servito a niente come capire i tuoi fianchi, che la luna venga e ci ricopra tra la gente, che la luna venga con i suoi occhi stanchi. Thank you.